accettiamo questa proposta lusinghiera, prestigiosa, incomincerà per noi un lento martirio. Lento martirio. Oh, ma sì, il lento martirio che hanno accettato i santi, le sante, tutti. O sono morti martiri di martirio violento, o sono morti martiri di martirio lento, fuoco lento o fuoco violento, una delle due. A noi il Signore propone il fuoco lento, il martirio lento. Fuoco, prendiamolo anche questo simbolo. Noi nella vita dobbiamo continuamente incenerire, incenerire, roba che non va. Ogni città ha dovuto costruire o sta costruendo il suo inceneritore. Ecco, bisogna che i rifiuti vengano bruciati, inceneriti. Nella nostra vita è un mestiere forse poco simpatico, lì per lì, poi cambieranno le cose ad un certo momento. Nella vita che paragoniamo ad un cammino, noi riportiamo sempre qualche po' di pantano, qualche po' di polvere, dei detriti, la nostra vita spirituale, morale, personale e comunitaria, porta in sé dei rifiuti, qualche cosa che a Dio non garba, che non possiamo portarci in quella seconda casa. Non possiamo, certi detriti li dobbiamo lasciare qui. Nulla di inquinato entra nel cielo, nulla di impuro entra nel cielo. Per l'orgoglio non c'è mai posto in cielo, per l'orgoglio e la superbia. Bisogna che certe cose che ci troviamo addosso, avvertitamente o inavvertitamente, bisogna che queste cose noi le deponiamo. Oh, ma penso che non debba essere un discorso difficile. Siete mai andati in montagna? Uno che va in montagna, ma intendo dire, non sul Pastello, intendo dire sul Monte Rosa, su una delle cime del Monte Bianco. Ah, chi ci è andato sa che bisogna mettere nello zaino soltanto ciò che è indispensabile. Altrimenti si fatica molto, ma si sale poco. Bisogna portar via facendo la sintesi, selezionare. Questo conta, questo non conta. Questo vale, questo ingombra. Ci sono di quelli che quando vanno in montagna si portano dietro una carovana di cose, per dir così. Poi non ce la fanno. Le forze sono quelle che sono. E allora, ecco, i rassegnati a tornare indietro. Ecco gli sfiduciati, ecco i pessimisti, ecco quelli che piantano lì. Amico, se tu vuoi salire quelle vette che hanno raggiunto i santi, devi portarti dietro un bagaglio ridotto ai minimi termini. Non devi sciuparti dietro cose che non contano. Perché andare dietro a cose che non contano? Ciò che non dura non vale la pena portarselo dietro. Vedrai che andrà male. Andrà male. Portati dietro l'essenziale e avrai sempre fiato d'avanzo. Cosa occorre che ti porti dietro quei ninnoli lì? Cosa occorre che ti porti dietro quelle cianfrusaglie lì? Di lì a un po', o te ne liberi o tu devi fermarti bloccato. E su questo punto il nostro Signore è come sempre molto schietto. O si serve Dio o si serve il denaro. Non è possibile servire due padroni. O il tuo fiato lo spendi per il tuo Dio o lo spendi per il tuo io. Non è possibile servire due padroni. Nulla di inquinato può salire al cielo. Voi lo sapete, avete visto o guarderete. Il pantano non può salire al cielo. Pantano e pantano resta sulla terra. Nulla di inquinato può salire alle vette, può salire al cielo. Se voi avete qualche volta salito delle vette, vi avete respirato aria pura, ossigenata, aria pura. Ah, com'era lontano lo smog delle metropoli, lo smog delle città, lo smog delle zone industriali. Via, tutto questo non era neanche, era un povero ricordo. Là sulle vette, aria pura, aria pura. I santi, da quando hanno deciso di abbandonare il fondovalle, il pantano, si sono ritrovati trasparenti nella loro coscienza, liberi della libertà dei figli di Dio, non più schiavi di tante cose, di tanti idoli, di tante fanfaluche, di tante stupidaggini, sciolti, liberi, con i polmoni, mente e cuore pieni di grazia. Ecco il nostro lento martirio.